Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave, il solito excursus dal vivo con la band il mercoledì dalle 22 alle 24. Stasera abbiamo da Trieste, direttamente da Trieste, Cortex. Buonasera, stai bene Cortex? Sto bene, sono qui. Hai fatto un giretto da Trieste, bene mi pare, no? Sì, sono una bella giornata, si stava bene, uh-huh. Hai fatto anche abbastanza presto, dici? Sì, ho fatto tranquillamente, c'era un po' di traffico in autostrada. Beh, si può superare, con la musica si supera tutto, cosa dici? Sì. Decisamente. Cortex, allora, cinico romantico si intitola il tuo progetto. Sì. Il tuo primo progetto per intero, possiamo... No, ne hai fatto un altro precedentemente. Sì, avevo già fatto un disco nel 2007 che si intitolava Cortex come progetto. Esattamente. Omonimo. A me quando sento Cortex mi viene in mente Cortex the Killer. Tu sei yanghiano, assolutamente yanghiano, perché una... Cari ascoltatori, stasera non è molto distorta, ma nel disco la chitarra è molto distorta. Sei yanghiano, e Cortex the Killer era un famoso pezzo di Neil Young. Lunghissimo pezzo di Neil Young. Sì. Quando c'aveva la band, i Crazy Horse, era una cosa strepitosa. Tu sei one man band praticamente. Suoni, sì, un po' di, suoni tutto quanto da solo praticamente. Stasera sei venuto con i tuoi strumenti, non solo la chitarra, hai tutti gli aggeggetti che possono darti una specie di percussione, una colorazione alla tua musica. Sì, di solito vado con una cassa di batteria, la chitarra e la voce, così più alla cantautore all'antica, come Bennato, no? Come Bennato una volta faceva anche così. Bob Dylan all'inizio di carriera, poi è una band adesso di un certo tipo, un certo peso, sono passati molti anni. Sì, perché come mai questa idea del cantautorato proprio solo? Come è nato? Perché tu suonavi in una band, mi pare, precedentemente. Sì, quando avevo ancora 20 anni suonavo in una band rock. Non sei mica vecchio. No, vabbè, ok. Suonavi una band rock e sei stato catturato a 7 anni dall'immagine del suono di Kurt Cobain, dei Nirvana. Sì, non è così. Quando ero giovane mi sono fatto Citiamo l'episodio molto divertente, cari ascoltatori. Avevo in organo Bontempi, mi pare una cosa simile, sì, ecco, e dall'organo Bontempi hai costruito qualcosa ispirato dal suono di Nirvana, non è così? Sì, io avevo in stanzetta questo organetto ad aria Bontempi e lo... facevo distorcere i suoni, creavo già canzonette quando ero piccolo. Vedi, c'è chi sente chi smilicia e tu sentivi Nirvana, è una bella cosa, Nirvana, sì. È una bella cosa, secondo me. Kurt Cobain, ma poi mi ha segnato così con... tutta l'ondata grunge degli anni 90. Esattamente, perché possiamo dire, caro Cortex, nell'insieme dei pezzi che adesso sentiremo c'è un po' di grunge, di acustico alla Nirvana, il famoso MTV Unplugged dei Nirvana. C'è qualcosa? Sì, io mi ispiro comunque sempre un po' nel Nirvana, magari nel songwriting, così nel mettere giù i testi e le idee sulle canzoni. Cinico romantico, bisogna stare attenti a questa frase, cinico romantico. È un po' un controsenso, no? Esattamente. Che vado a cercare così, ma al giorno d'oggi un po' il romanticismo va anche a sfociare nel cinismo, diciamo. Sì, perché tu hai bisogna detto, scherzarci un po' giustamente, sopra. Giustamente, bisogna scherzarci un po' sopra, perché è difficile fare i romantici adesso. Ormai è romantico che non funziona più. Non funziona più. Sono pochi i romantici, d'amore non si riesce solo a vivere. Questo è no, purtroppo. Allora, così un po' per prendere in giro, così ironizzare così, chiaramente. La questione dell'amore, queste cose qui, ho venuto in mente questo titolo, Cinico Romantico. Possiamo dire che hai fatto tutto te il disco, autoprodotto o no? Sì, l'ho scritto tutto quanto io, tranne con le batterie di due canzoni. Ti hanno aiutato? Chi ti ha aiutato? Mi ha aiutato Francesco Valente, che è il batterista del Teatro degli Orrori. Vedi che è interessante anche questo, del Teatro degli Orrori, uno dei gruppi più importanti di quest'annata, che si sta sviluppando, è stato veramente un gruppo notevolissimo, un gruppo indie tra virgolette stavolta. Anche loro hanno aumentato il discorso dell'indie, non sono più indie neppure loro. No, sono mainstream. Sono mainstream. In giro anche con Hai paura del buio. Esattamente. Vanno... Quindi hanno sono entrati famosi, tra virgolette. Sì, sì, sono. Quindi c'è stata questa collaborazione e la batteria l'ha suonato questo batterista. Sì, Francesco ha suonato le batterie. Gli avevo fatto sentire le canzoni, si è interessato. Ha detto, guarda, se vuoi ti serve qualche batteria, facciamo una session e registriamo. Perfetto. Perfetto. Adesso per aprire la finestra, come usiamo noi a Rock Wave, assolutamente dal vivo, l'appuntamento del mercoledì, l'appuntamento clou della settimana per quanto riguarda i live, anche se poi live facciamo tutti i giorni, presentiamo il primo pezzo che tu hai scelto dal disco. Il titolo del pezzo, te li ricordi? La scaletta, cosa? No, non te la ricordi la scaletta, perfetto. Adesso ce l'ha Michele. Ah, il primo pezzo? Sì, il primo dal disco. Il testo tra le nuvole può essere? Boris. Numero 4. Adesso lo sentiamo, sì. Poi ne parliamo assieme. Va bene? D'accordo. Ok. Per avere il tuo cuore faccio tanto rumore. Per il tempo imbrogliare ora mi metto a gridare. Una canzone da cantare per i tuoi occhi si stregare. Fissavo il mondo spaesato, finché tuo sguardo non ho incrociato. Oh, quanto è dolce riscoprire e credere di capire. Il mio sorriso è da curare, se vuole credere da amare. Un sentimento dal passato, di colpo hai risvegliato. Se vuole credere da male, il mio sorriso da curare, se vuole credere da male, il mio sorriso da curare, se vuole credere da male, il mio sorriso da curare, se vuole credere da male, il mio sorriso da curare, se vuole credere da male, il mio sorriso da curare, se vuole credere da male. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Eccoci qua. Musicalmente è un pezzo abbastanza duro. Duro nel senso, è il pezzo di Cortex praticamente. Il tuo modo di interpretare i pezzi, ironizzando su questo amore, però con una vocalità sostenuta, cattiva tra virgolette, possiamo dire, sì. Sempre tra virgolette. Qui c'è la batteria di Francesco, qui c'è la batteria, se... ti dà un certo peso al discorso. Questa canzone l'hanno così un po' anche paragonata al tempo di morire di Battistiana Memoria, sì. Ricorda questo blues così che parla. A proposito, tu sei un musicista blues, ami particolarmente il blues. Sì, blues io proprio lo adoro. È il tuo DNA praticamente. Sì, faccio blues, lo fai apposta perché il genere, il blues mi è sempre attratto, sempre cerco chitarre, io sono un collezionista anche di chitarre. Ah, quella che usi stasera che cos'è? Questa chitarra è una chitarra che non ho idea di come si chiami, è una chitarra tedesca però e non so il nome. Ha un suono molto particolare, non è un suono da chitarra acustica o meglio. No, è uno dei primi prototipi di semiacustica questo qui, penso. Suppongo sia degli anni 30-40. Penso di, proprio di sì, sì, anche come, come aspetto, dal punto di vista di aspetto, possiamo, non, di, non si dice fisico perché non è una persona umana, ma fisicamente si vede così praticamente. Sì, l'ho recuperata da un rigattiere che me l'ha venduta e sono molto fiero di suonarla. Sì, molto, anche se con questa chitarra, noi siamo molto fieri di sentirla praticamente. Ho registrato tutto il disco. Ah, con questa hai registrato tutto praticamente. Sì. Per fare il disco mi sono... Come l'hai fatto il disco da solo? Ma come? Con quale strumento? Qualche aggeggio diverso? Qua ne hai portati due o tre per dare una certa dimensione al live. Ma semplicemente ho microfonato un amplificatore valvolare. Che qua stasera non hai portato. Che non ho portato, non sarebbe stato da microfonare. E dopo ho suonato questa chitarra e ho fatto le basi con la chitarra e la voce. Ti ha dato, ti ha dato una mano qualcuno o no? A registrare mi ha dato una mano Abba Zabba, che è Sandro Giorgiuti, che è un tecnico del suono. Lui lavora con i Mellow Mood, che è un gruppo reggae. Sì, famoso, che è venuto anche qua. Sì, lui fa il fonico per loro. Insomma, mi ha dato una mano a fare queste registrazioni, perché da solo è un po' difficile gestire il tutto. Una volta che ti metti a registrare, insomma, un po' complesso, sì, il discorso. Mi ha dato una mano e ho registrato tutto quanto con questa chitarra. Diciamo principalmente le canzoni sono canzoni che stanno su chitarra e voce. Cioè, e dopo ci ho messo sopra degli arrangiamenti, altre chitarre, dei cori, percussioni. E dal vivo li presenti con gli arrangiamenti, con tutte queste, cioè chiaramente costruito con degli aggeggi per fare gli arrangiamenti, quei suoni in più dalle chitarre acustiche, o presunta tale, non è acustica questa, è un'acustica per modo di dire. Sì, dal vivo vado o da solo chitarra e voce, proprio semplicemente. Ma è sempre così distorta la chitarra? Sì, sempre distorta, oppure mi faccio accompagnare da qualche musicista. Ultimamente vado in giro con un ragazzo che si chiama Matteo Bognolo, che ha un progetto che si chiama Matteo e Basta, e mi dà una mano, suona un po' il piano, un po' la chitarra, la seconda chitarra, fa gli assolini e via. Sì, ti costruisci da una mano, un praticamente. Un po' da pattappeto, così. Esattamente. Sì. Bene, adesso facciamo le cose più importanti, significative di un live. Suoniamo dal vivo. Iniziamo d'accordo con questa scaletta dal vivo. Con quale pezzo, Cortex? Vi posso cominciare questo live set con Complicare, che è stato il primo singolo che ho estratto dal disco, c'è pure il video online. Sì, esattamente. Lo sentiamo. La canzone col fischietto. Col fischietto, effettivamente. Complicare oggi è facile, se un'anima poi è semplice, si innamora, diventa debole, ma una bugia tu non ci credere. Giorno per giorno potrai costruire ciò che non puoi nemmeno immaginare. Dentro di te la cosa ti fa soffrire, la devi subito eliminare. Mi piace vivere in un mondo sereno, sì, ma qui oggi è tutto un veleno. Un raggio di sole mi fa emozionare, sono un romantico, cosa ci posso fare? La la la la la la la la la l'amore. La soluzione non ti potrò dare, solo tu potrai capire che non ti posso insegnare ciò che dovrai costruire. Non mi resta che aspettare, tanto a me piace cantare, ma al domani non voglio pensare, se con te non potrò stare. Mi piace vivere in un mondo sereno, sì, ma qui oggi è tutto un veleno. Un raggio di sole mi fa emozionare, sono un romantico, cosa ci posso fare? La la la la la la la la la la la. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Bravo Cortex. Complicare, qualche critico ha detto giustamente, un ritornello che continua a stare in mente. Bello, interessante questo ritornello che continua a stare in mente. Qualcuno ha parlato di Western alla Sergio Leone, qualcuno ha parlato di Pino Daniele. Io parlo di Cortex. Un ritornello che sta in mente è una bella cosa, secondo me. Eh sì, il ritornello se resta in testa, se resta in mente. Vuol dire che la canzone è costruita bene. Eh sì, vuol dire che funziona, sono super contento che il fischiettio resti in testa. L'ho costruita questa canzone così di... velocemente di botto, così di botto, esattamente l'istinto. Nel video immagini un goffo killer, mi pare, una cosa di questo genere. Sì, faccio un golf in persona, un goffo killer, interpreto così un goffo killer, è alle prese con delle ragazze, con l'amore, con dei contendenti, gli elimino pianino così. Pian pianino, tutti quanti. Sì, sullo stile un po' dexteriano, così sì. Dexter. E però alla fine io ho fatto il favore a queste ragazze di eliminarli, questi loro contendenti, però alla fine le ragazze ce l'hanno con me, mi inseguono, mi vogliono uccidere. Un po' un controsenso così, come un po' è tutto. Il disco. Controsenso, però divertente anche musicalmente. Sembra disimpegnato, ma non è proprio così. Ci hai messo un sacco di tempo, abbastanza ore, per trovare le giuste derivazioni, i giusti connotati di questo disco, di questo lavoro, di questo progetto, possiamo dire. Ci ho messo un po' di tempo, sì, ma per fare le registrazioni, per buttarlo giù, ma un 3 mesi così. Hai lavorato per metterlo sul disco. La fase prima sono canzoni, insomma. Tu hai detto che questo disco è stato fatto perché volevi di aprire un discorso con gli amici, un discorso assieme, trovare degli spunti tra amici, fare un discorso tra amici, una cosa di questo genere. Sì, perché diciamo dal 2007 non pubblicavo nulla di nuovo e tutti gli amici miei dicevano dai, fai qualcosa, e io insomma ho fatto questo disco, sì. Ho unito queste canzoni e le ho ordinate così, diciamo. Il progetto precedente come si chiamava? Si intitolava Cortex. Ah sì, l'hai detto, esattamente, sì. Che diversità aveva da questo praticamente? E avevo una forma più psichedelico. Eri più barrettiano. Più barrettiano, sì. Psichedelico cantautoriale, così sullo stile del anni 60, così un po' l'uovo di Colombo, PFM. Cioè, l'uovo di Colombo, quindi un gruppo prog praticamente. Sì. Come mai conosci l'uovo di Colombo? Molto interessante questa tua disquisizione sul prog. Ma ami il prog, fa parte del tuo DNA. Sì, sì, sì, io adoro questo tipologia di musica. Conto che, insomma, Garibaldi anche sono un gruppo... Garibaldi, un altro gruppo molto importante. Sì, non conosciutissimo, i Garibaldi non sono... Però Garibaldi è un gruppo che prog, che mista anche sul jazz, che si avvicina al jazz, sì. Secondo me. C'era tutto un... erano di grandissimi musicisti. Sì, appunto, un substrato musicale molto interessante c'era all'epoca, insomma, negli anni 60 in Italia. Io lo trovo molto più vero rispetto, non so, magari altri tipi di musica, più comunicativo. Ho ascoltato molto quel tipologia di musica, i Pink Floyd. Dai Pink sono partite molte cose. Sì, dai Pink Floyd, sì, sono partite. Soprattutto da Syd Barrett, e poi sì. Se n'è andato troppo presto musicalmente. Troppo presto, doveva essere così, perché dopo un disco non ce la facevano più a tenerlo musicalmente, perché non aveva più idee, cioè aveva tante idee ma sparse. Sì. Era completamente, purtroppo, partito. È un po' impazzito. È decisamente impazzito. Sì, quindi il primo disco Cortex, molto barrettiano, tra virgolette, questo non è barrettiano, questo è Cortex, assolutamente. Si allontana da quei tipologie e suona con la chitarra distorta, non in questo caso che non è possibile, è leggermente distorta. Sì, un pelino distorta, una chitarra che è del 1930, mi dici? Sì, questa qui è una tedesca del 30, una tedesca degli anni 30, che poi le chitarre... Tu sei un collezionista di chitarre, avevi detto. Sì. Oltre a questa, che cosa possiedi a casa? Io voglio conoscere, voglio sentire. E ho un po' di Fender, Poi io sono molto attratto dalle marche italiane, quali, non so, le Echo. Le famose Echo che usavano sì. i Rocks al Piper, ti ricordi? Sì, sì, io ho suonato anche al Piper a Roma. Hai suonato anche al Piper a Roma? Sì, ho fatto una volta un concorso, Tour Music Festival, e la finale era al Piper a Roma. Cosa sentivi suonare al Piper a Roma? Dove ha suonato Jimi Hendrix? Ha suonato anche Patti Pravo. Con i Pink Floyd, dicendo, ma cosa usate queste luci? Mi date fastidio con queste luci? Ma stranamente, non so se sai, il Piper è sottoterra. Sì, è vero, sottoterra. Sarà tipo due piani sottoterra. Già questa cosa qui mi ha fatto molto strano, ci sono delle scale ripidissime per entrare. Ho avuto un'esperienza molto positiva al Piper, perché lì ho ricevuto un premio da parte di Mogol. Che sì, vero. Che mi ha dato questa borsa di studio. È un locale moderno, cioè, insomma, ma no, più il Piper di un tempo, sì, chiaramente. Immaginarlo negli anni 60 era un locale molto moderno, cioè, nel senso, certo, era un po' avanti. Roma, cioè, su una via normalissima, vai di più in una cantina, tac, e trovi i Pink Floyd che suonavano. Sì, trovi esattamente, una cosa meravigliosa. Passiamo all'altro pezzo da scaletta. Che cosa hai scelto, Cortex, adesso? Ora potrei farvi Boris. Adesso sentiamo Boris. Che è la traccia numero? Da disco. Ah, dal disco? Da disco. Dal disco mi pare che sia il numero 5. Numero 5, sentiamo, sì. Boris. Adesso, prima sentiamo. Abbiamo sentito Per avere il tuo cuore. Esattamente, adesso sentiamo Boris, traccia numero 5 da disco, e poi ne parliamo, ok? D'accordo. Soldi, il potere è fare soldi a palate, il potere è una corazza di denaro, ma chi l'ha detto? Un sorriso da valore, perché cambia il tuo amore e la gioia dei bambini, non sta mica nei soldini. Avere macchine sfavillanti, con tante luci mirabolanti, potere una corazza di denaro, ma chi l'ha detto? Un sorriso da valore, perché cambia il tuo amore e la gioia dei bambini, non sta mica nei soldini. Impertinente, credi di essere divertente, guarda ora tra le tue mani cosa stringi per il domani. Io c'ho tutto, forse niente, tanto il mondo è divertente. Un sorriso non ha valore, perché cambia il tuo amore. La gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Il mondo è bello perché è blu, ma ora è grigio, guarda, l'hai voluto tu. Radio Veneto. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito Boris. È interessante, cari ascoltatori, che adesso Cortex ci spiega perché Boris. Bori in triestino che cosa vuol dire, caro Cortex? Bori in triestino vuol dire soldi. Skei, come diciamo qua dal Veneto. Skei, come dite qua. Quindi praticamente è una questione di soldi. Si parla anche di soldi. Sì, perché in questa canzone io dico che la gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Certo. Perché un bambino non ha la coscienza di sapere cos'è il denaro, cos'è, cioè, il denaro, cosa vale. Se un bambino tu gli metti un cioccolatino da una parte, un sacco pieno di soldi con un milione di euro da una parte, preferisce il cioccolatino. Preferisce il cioccolatino, chiaramente, no? Sì. I soldi, perché allora, dato che è una canzone un po' contro i soldi, diciamo, contro la società moderna che porta Dio denaro, praticamente. Sì, contro il Dio denaro, l'ho voluto chiamare Boris, no? Con la S. Con la S come soldi, sì. Giustamente nel titolo c'è proprio il dollaro. Sì, c'è il dollaro finale. Il dollaro finale. Era così un'ironia che volevo portare dal nostro dialetto così al... Bello, è una cosa positiva, sì, secondo tanti me. Tanti pensano, appunto, come pensavi te prima, che venisse dal film, sì. Quello lì che mandano in televisione, invece no, viene... Viene da una tua idea, praticamente. Sì, dalla traduzione di soldi in triestino. E musicalmente leggermente un po' di reggae ci può essere, può fruire, sì, ci può nel retroterra, nel sottobosco musicale. Sì, ho fatto un arrangiamento più così in levare, comunque già questa levare il reggae, assolutamente. Sì, sì. Ho fatto anche un po' di palm guitar, quindi... Traduci per chi non sa che cos'è il palm guitar. Il palm guitar è quando si tappano un po' le corde, si fanno queste cose così. Non so se sì, dai, vai, vai, prova. Sì, sì, ok. Quindi, così. Questo suono un po' proprio tipico suono reggae. Esattamente. Tipico suono di Peter Tosh che tiene i rifoni sotto al levare dei Bob Marley. No? È vero. Quindi questo reggae che passa nell'universo sonoro di Cortex. Io cercavo di sensibilizzare la gente nei confronti dei valori veri rispetto al valore del soldo, no? Così è nata questa canzone. Giusto, anche musicalmente è valida, è interessante, è un buon discorso, un buon programma, un buon progetto. Ora ci sto facendo il video. Ah, ci stai facendo il video? Sì, siamo in fase costruttiva del video. Ma il video... Cioè, ci sono delle persone che ti danno una mano per fare il video, o fai anche per questo? Io, diciamo, adesso per questo video qui ho... Why My Band in tutti i sensi, praticamente. Sì, diciamo, possiamo dire di sì. Comunque mi avvalgo sempre dell'aiuto di amici. Ad esempio, ho già fatto un video, il video di Complicare. Ad esempio, la regia è stata fatta da Francesco Sossai e la sceneggiatura da Zampieri, un amico mio, da Simone Zampieri. Quindi è una specie di ti dà una mano. Sì, proprio su questo, sul video di Complicare, ad esempio, l'idea anche del soggetto, tutto quanto, quello di Dexter, è stato di Francesco, e allora ha messo giù questa idea, mi sono prestato alle cose. E ad esempio adesso ho in mente di fare sia il video di Boris che un altro video di Della Della Pietra, del quale ho scritto uno storyboard. E magari comunque loro mi danno una mano a mettere giù, diciamo, l'idea, magari è mia, loro mi danno una mano a mettere... Secondo te il discorso del video è ancora valido 2013? Eh sì, ormai il discorso del video... È trainante, praticamente. Sì, è una maniera per promuoversi, per far sentire meglio... Visto che adesso i dischi non si vendono, assolutamente. I dischi oggigiorno è molto difficile venderli, si fa scaricare tanta musica... È vero. Per cui comunque anche il mio disco è scaricabile gratis online su Clinical Archive, oppure posso fare la pubblicità del mio sito www.cortex-music.com, che è visitabile, anche lì si possono trovare i link per scaricare tutte le canzoni, le tracce, video. Praticamente. E al giorno d'oggi per fare un video è importante, per, appunto, per comunicare, per dare un certo senso alle cose, per far vedere, eh sì, perché la gente ormai ascolta e guarda, no? Esattamente, questo sono anzitutto più importanti i video magari dei dischi. Io preferisco meglio i concerti, scusami, io sono di una certa età. I concerti sono il punto, cui, focale, il punto importante, focale in cui il musicista porta... che concerti deve dare tutto se stesso, come dai te nei tuoi concerti. I concerti è il massimo. Uno fa un disco per fare un concerto, per farlo sentire alla gente, e poi se lo fa vedere è meglio, sono d'accordo con te. Sì. Però il concerto è un'altra cosa. I concerti sono quello di avere il pubblico che ti sta vicino, e che senti la gente, è un'altra cosa. Chiaramente sì. Un'altra atmosfera. A proposito di concerti, il prossimo pezzo che suoni adesso che cos'è? Ora cosa vi posso fare? Vi posso fare La Felicità secondo Leopardi, che sarà il prossimo video promosso dalla Cortex & Co. e da Lunatic, e ora ve lo faccio. Benissimo, ok. Mi preparo. Adesso prende l'armonica. è un po' complicata con la cuffia, la cuffia e l'armonica, ma dopo ci si arriva. Combiniamo un po' di tutto. Suona? Sì, vai bene. Vivere chetamente nella propria condizione, Leopardi lo diceva, cioè felicità, felicità. Lo sguardo ed il sorriso con gli occhi da bambino, la festa dei miei anni continua giù in giardino. Felicità, felicità. Fermi un istante nella tua immaginazione, quando non sai più se è realtà o delusione, ma è felicità. Felicità. Festa in festa. Gli appuntamenti in Veneto. Gli appuntamenti in Veneto. Spettacoli, mostre, sagre ed eventi in Veneto. Alle 12.05 da lunedì a venerdì, in replica alle 17.05 e anche in podcast. Di festa in festa. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua. Ma un po' intrigato la felicità secondo Leopardi. Come ben tutti sappiamo, la felicità secondo Leopardi non è una felicità, è una controfelicità. Eh sì, è una cosa un po' strana. È un po' strana, effettivamente. Questo pezzo ti racconto. Dimmi, caro Cortex. Prima... salutiamo anche il tuo accompagnatore di stasera. Sì, il mio driver, qua Marzio. Esattamente. Allora, questa canzone una volta... l'avevo in inglese. L'avevi scritta in inglese. Si intitolava Tears of Whiskey. Lacrime di whisky. Sì. Parlava di una sbronza. Io che piango dietro una donna. E invece un giorno non sapevo cosa. Hai cambiato. Non sapevo cosa scriverci in italiano, no? Perché dicevo, vediamo di cambiare il testo da inglese e lo mettiamo in italiano. Allora ho detto, ma cos'è la felicità? Mi domandavo. Allora sono andato sul vocabolario. E mi è capitato la felicità, una citazione di Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi. Dice, la felicità è vivere chietamente nella propria condizione. Cioè, dico, ma... però... non ci aveva neanche tutti i torti quest'uomo. Ci sarà stato triste, tutto quello che vuoi, perché Leopardi non era... sì, sintomatico della tristezza. Sì, era recanato, insomma, se la viveva abbastanza male, povero, a 7 anni di studio matto, disperatissimo. Certo. Per queste cose qui. Allora ho provato a scrivere un po' cos'è la felicità, secondo me. E ho evoluto un po' il concetto di felicità in questo ritmo blues, così. A proposito del ritmo blues, tu il titolo in inglese precedente che cos'era? Tears of Whiskey. Ecco, molto waitsiana alla Tom Waits, secondo me. Tom Waits, Tom Waits. È un altro tuo preferito, Tom Waits. Tom Waits, io lo adoro. Questo è un pezzo alla Tom Waits, mi ha intrigato molto per la chitarra distorta e questo blues che c'è sotto. Mi ha intrigato molto questo pezzo, posso dirlo. Sono super contento che mi hai paragonato a Tom Waits, ti giuro. Perché sono... questo titolo è molto waitsiano, secondo me. Perché lui, non posso dire profuma di whisky e di sigarette, però insomma è il suo sinonimo. Ma guarda che effettivamente... La sua immagine. C'hai ragione, perché io il periodo in cui avevo scritto questa canzone in inglese, Tears of Whiskey, proprio mi spaccavo, ascoltavo moltissimo Tom Waits. Io amo Tom Waits iniziale. Iniziale, quello lì c'è... Sono, Blue Valentine mi piace molto. Quello lì, io c'ho anche un disco, mi sono proprio rovinato, sono ascoltarlo, se non mi ricordo, che c'è già dentro una canzone, The Heart of the Saturday Night. Adesso lo ricordo. Io amo, oltre a Blue Valentine, Rain Dogs, un altro disco meraviglioso. Non sa qualcosa da Rod Stewart, che ha preso un pezzettino da quello che ha fatto successo mondiale. Al di là di questo, c'è il blues in questo tuo pezzo, ma in tutti i pezzi, ma particolarmente in questo pezzo c'è il blues distorto, con la chitarra distorta. È una bella cosa, secondo me, è significativa. E l'abbiamo... Stasera non era distorta, ma ci poteva essere anche distorta, stasera dall'acustica, dal vivo. E questo blues distorto è bello, secondo me, è interessante alle 22:41, caro Cortex. Giusto. È proprio, esattamente. Quindi l'idea di questo pezzo è nata da una citazione di Leopardi. Sì, aprendo così il... il vocabolario, non so cos'è. No, proprio il vocabolario, ho cercato felicità. Ma cosa vuol dire felicità sul vocabolario? Volevo vedere cosa scriveva, no? Aveva delle belle intuizioni. Sì, delle citazioni. Citazioni un po' difficili, un po' complicate, soprattutto per gli studenti. Però... Purtroppo un vocabolario non riuscirà mai a dirti cos'è la felicità. Ah, indubbiamente. È una cosa molto personale, diciamo. Sì, no? È personalissima, possiamo dire. Ognuno la immagina in una certa maniera, praticamente. Sì. Bene, adesso immaginiamo qualcosa di positivo. Un altro pezzo da disco. Cosa hai scelto come traccia? Ti ricordi? Cosa ho scelto? Ora non ricordo ben precisamente. La numero 6 mi dicono, la numero 6, l'era della pietra potrebbe essere, ecco, ci fermiamo, benissimo, ci fermiamo un secondo. E questo perché ci fermiamo? Perché intanto salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che stasera ti ha voluto qua a suonare, e perché abbiamo scelto questo pezzo da far sentire per un mese consecutivo dalla nostra emittente, per dare l'immagine del disco. L'ho trovato molto musicale questo pezzo, La testa tra le nuvole. Esattamente, La testa tra le nuvole è una canzone... È una ballad, possiamo dire che possa essere una ballad, tra virgolette. Sì, possiamo dire. Questa qui, anche questa canzone ha una citazione all'interno, che è De André. Esattamente. Che lui diceva, dallo sterco non nasce niente, dai diamanti nascono i fiori. Sì, esattamente. Io l'ho cambiata questa cosa. Leggermente cambiata. Per dare più o meno lo stesso senso poetico, diciamo, lo stesso messaggio. Noi l'abbiamo trovata positiva, cioè un bel pezzo secondo noi, e abbiamo scelta come pezzo per lanciare, per dare un'immagine al progetto, un'immagine sonora chiaramente al progetto. Sono molto contento perché di questa canzone ci tengo abbastanza, molto anzi. Bene, adesso la sentiamo, ok? Ok. C'è stata l'era della pietra, ho inventato anche la ruota, poi le streghe volevano bruciare, ora stanno tutti a comandare. L'uomo sì sa pensare, l'uomo ora sa male, certo comodo vorrei stare, qualcuno avrai da eliminare, spendi, spandi, spendi, offendi, offendi, ti spaccherei volentieri i denti. L'uomo sì sa pensare. stare. Ora sa del male. Hai costruito democrazia. Cribbi ora non sai più che sia. Quanto è forte il tuo potere. Come si sa pensare. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, abbiamo due punti da sviluppare. Il primo punto è questo, la voce distorta. Mentre adesso ti abbasso la cuffia. Ecco, ok. Mentre il pezzo andava, io e Cortex, anche col driver, partecipava anche lui a questa conversazione. Parlavamo della voce distorta e citavamo, giustamente Cortez mi citava in The Kurt Hopkinson Cream, anche l'aspetto della copertina, incredibile, bellissima, e questa voce distorta che c'era soprattutto nel primo pezzo, il pezzo iniziale. E allora lui, Cortex, sempre parlava del prog italiano, uova di Colombo, ma soprattutto i De De Linde che avevano questo gioco di distorto della voce. Come mai ami la voce distorta, caro Cortex? Perché vuoi dare un impulso, una forza al testo, anche se ironico, tra l'ironia e non. È un gioco così, un po' per particolarizzarlo un po' di più, per rendere certe frequenze un po' più potenti. E poi anche il gioco appunto del distorci un po' la voce, di fare questa... Come la distorci a casa tua la voce, perché l'hai fatto a casa tua o in uno studio questo pezzo? Ci sarà un sistema sicuramente. Qualcuno usa una specie di imbuto o una cosa di quel genere. Sì, io ci ho messo un overdrive, che non è un effetto per chitarra. Ho fatto passare la voce tramite... Hai fatto passare la voce praticamente. Sì. Poi ci sono vari modi per ottenere questo suono della voce. Una volta, chiaramente, i King Crimson probabilmente usavano un microfono d'armonica. È vero. In un amplificatore pescavano il suono che fuori. Non so chi fosse il produttore, adesso non me lo ricordo. Certo che Fripp già cominciava a giocare sui suoi aggeggi, questo gioco di chitarre, ci ha messo un po' di tutto dentro la chitarra Fripp. Sì, ma per la psichedelia io ho sentito tipo un pezzo sulle cose elettroniche, sulle distorsioni dei Kraftwerk. Ma gruppo ancora tedesco, prima che vengono, cominciano a fare Ralph e Florian, allora sì, quando prima che venisse a fare il grande successo, il grande successo con la musica elettronica, loro facevano delle cose assurde con dei macchinari, anche un flauto distorto, una voce bello, distorta, molto bello, molto interessante. Erano veramente interessanti. Ho sentito questa canzone, t'ha ispirato, sì, questa e questo gioco di ispirazione si trova e si sente in questo pezzo. Sono tutti i tuoi amori messi assieme musicalmente parlando, e chiaramente il risultato mi piace a me personalmente. Io a una certa età amo particolarmente quelle sonorità molto legate al prog, anche se il prog non è, però il prog c'è sempre. Tu ami particolarmente il prog, ami il blues, che può anche essere collegato a certi band prog italiani amavano fortissimamente il blues. Eh sì, blues, jazz sono alle basi della musica moderna, chiaramente, del rock, sì. E tutte le varie sfumature. E sono dei... E la voce distorta ci sta, assolutamente, sì. Ci sta. Sono dei generi che danno ampio spazio alla creatività e alla possibilità di creare delle cose nuove, no? Io, tu hai citato il blues e il jazz, mi viene in mente i Caravan, quindi belli Caravan. Esattamente, quel particolare suono inglese di quel periodo, i Canterbury. Il suono di Canterbury, qui c'è il jazz e il rock che vengono messi assieme, poi i suoni classici, è una cosa meravigliosa. Quindi anche Soft Machine, tanto per citare un'altra band epocale. Sì. Ritorniamo a Cortex. Ritorniamo a noi. E ritorniamo a te. Che cosa ci fai suonare adesso? Allora, ora vi proporrò dal vivo La testa tra le nuvole. Benissimo. Canzone che fate girare qui in radio. Sì, assolutamente. Che merita di essere fatta girare, secondo me. Adesso la sentiamo da Cortex live. Ok. Ho la testa fra le nuvole e fra le nuvole. Ho la testa fra le nuvole e fra le nuvole. Il cielo è sempre più blu. Volevo parlare d'amore, sì, ma l'amore io non so cos'è. Un pugno al cielo, così sarà sempre più blu. In fondo al mare, nascosto c'è il tuo cuore. Marinaio, andrò a cercarlo in fondo al mare, ma che ci troverò? Solo buio, solitudine, disperazione. Ah, l'amore ci rovina tutti, prima o poi. Sullo sterco nascono i fiori e sulle rocce morirai. Il mondo è così pieno di guai, sì, ma domani sarà tutto diverso, io e te staremo assieme, sarà bellissimo e non mentirò più né a te né a me stesso, ma lo sai che son bugiardo come sempre. Ah, l'amore ci rovina tutti, prima o poi. Sullo sterco nascono i fiori e sulle rocce morirai. Il mondo è così pieno di guai. Blu Radio Veneto, il Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, eccoci qua. Sì, sì, va, va, adesso va, si sente. Ok. Okay. Benissimo, abbiamo sentito allora questo pezzo, praticamente questa citazione di De André, tra virgolette, sempre tra virgolette praticamente. E un'altra cosa che volevo sottolineare, il discorso della melodia che esiste tangente in questo pezzo, si sente notevolmente, fra una chitarra distorta ed altro la melodia viene fuori bene secondo me. Viene fuori, perché bisogna essere anche melodici, tra virgolette, caro, caro Cortex, in alcuni momenti. Melodici, ma non neomelodici. No, non neomelodici è un'altra cosa, assolutamente. Melodici sì, possiamo sì. stare. Neomelodici è un altro settore, un altro sentiero che abbandoniamo sì. da lontano, vediamo da lontano, da molto lontano. E bisogna essere un po' melodici così per lasciare. Melodici vuol dire anche romantici, sì, tra sì, virgolette. Una melodia nel, nell'aria. All'interno delle, delle canzoni, no? Esatto, così che ci stanno sta. Più in testa. Sì, anche alla gente praticamente, sì. Che ti può sentire nei concerti. Abbiamo citato i concerti, non abbiamo ancora citato qualche tua data nei concerti praticamente. Qualche tua performance, se hai proprio delle date vere e proprie. Ma imminenti, imminenti, non ho date così fuori. Sono stato ultimamente il 23 agosto al Rock and Road Festival, che è a Piatteda, vicino a Sondrio. Bene. C'erano i Fast Animal, Slow Kid, i Sacchi Sad, George. Quindi gruppi sono di un certo spessore. Sì, gruppi che insomma girano qui sì. in Italia. In Italia, in Italia, in Italia. Avevo delle date a Trieste in locali qui comunque qui vicino a Trieste al Rondo Midnight, al stazione Rogers. Quindi avevi delle date quindi locali. Sì sì sì, ora sono in fase, sto costruendo un mini tour per ottobre-novembre, quindi non ho ancora date certe, le comunicherò sul mio sito appena mini tour sempre con qualcuno o sei da solo praticamente? Dipende. L'idea di essere da solo è interessante per te o è meglio una band, una mini band che ti possa accompagnare? È sempre più allegro andare in giro assieme, fare delle date con altra gente, del rumore un po' tutti quanti assieme. Certo. Però tante volte il cachet comunque spostamenti mi costringono a girare da solo. Chiaro. One man band, come abbiamo detto precedentemente, con tutti i tuoi aggeggi, senso positivo del termine, sì. possono dare un certo risalto, una certa potenza alla tua musica. Già è potente per se stessa. Io ricordo, a proposito di chitarre distorte, ricordiamo che un certo signore si chiamava Jeff Buckley, aveva una chitarra acustica, ma più distorta di quella non c'erano altre. Era fortissimo, straordinario, con la chitarra distorta. Acustica faceva delle cose incredibili. Incredibili. Sì. A proposito di chitarre distorte o d'altre cose, qui non si paga nessun cachet e sono le 23, manca qualche secondo. Il cachet non te lo possiamo dare, però i 5 dischi da portare su una deserta li puoi sicuramente enunciare a tutto il popolo di Rock Wave. Allora, per dire questi dischi ora. Dato che mi cogli così ti sei preparato a quel driver di sorpresa, mi preparo adesso, vi farò i miei ragionamenti. Allora, anzitutto io porterei Grace di Jeff Buckley. Abbiamo citato ora. Come mai Jeff Buckley con l'ultimo epocale disco, l'unico epocale disco che ha fatto? Quel ragazzo lì aveva una potenza. Aveva un grande DNA proprio, quel ragazzo là. Anche un buon DNA, ma anche una. Una grande sua caratteristica. Un carisma incredibile. E una comunicabilità, insomma, con la voce riusciva ad essere molto sensuale. Esattamente. Carisma che il papà non aveva. Papà aveva una grande voce, mentre lui aveva anche un grande carisma. Sì. Poi. Cortes si sta dissettando live chiaramente perché fa molto caldo. Alle 23 esatte stasera qui a Rock Wave. Poi porterei Abbey Road dei Beatles. Come mai Abbey Road, questo disco bello, meraviglioso, come tutti i dischi dei Beatles? Disco dopo prima dell'album bianco, cioè dopo l'album bianco, no, prima dell'album bianco, pardon, e dopo Salt and Pepper, soprattutto dopo Salt and Pepper. Ero un po' indeciso tra Salt and Pepper o Abbey Road. Abbey Road lo porterei anche per la copertina. quella famosa. Sì, quella famosa. E anche per Come Together, che è una canzone che io adoro. Una canzone bellissima, okay. Una canzone beatlesiana molto spinta, molto forte, sì. Con bel groove, come si chiama, come si dice, non si diceva all'epoca, si può dire dopo, veramente. Poi cosa ci porterei? Magari Led Zeppelin 2. Come mai Led Zeppelin 2 e non il 3 o il 4? C'è One Lot of Love dentro. C'è il singolo favoloso. Since I've Been Loving You. Che è un altro blues, blues incredibile. Con Sandy Danny Dorchett che beleggiava. Poi mi porterei qualcosa di italiano. Cosa potrei portare di italiano? Quello che vuoi. Sì. Qualche disco di Dalla. Porterei, ma porterei anche Banana Republic. Non so se conosci il progetto De Gregori. Dalla De Gregori. Sì, Dalla De Gregori. Il famoso concerto che io ho visto molti anni fa, chiaramente datato, al Friuli, visto le tue parti, a Udine, allo stadio Friuli. Li ho visti all'epoca, proprio all'epoca del primo Banana Republic. Sì, Dalla sì. De Gregori, proprio li ho visti là. C'era un giovanissimo Ron che veniva presentato come supporto, entrava in scena e poi chiaramente arrivavano Dalla e De Gregori. E poi quanti ne abbiamo adesso? Tre? Mi pare che tu sia arrivato a quattro, ma puoi, puoi farne anche sei, non cambia niente. Assolutamente. E poi cosa porterei? Qualche disco americano. Quale disco americano? Che cosa americano? Sono indeciso tra Nevermind o In Utero di Nirvana. Abbiamo citato molto In Nirvana. Tutti citano Nevermind o In Utero. Nevermind è il classico disco che ha amato, che ha fatto amare una generazione di musicisti. Sì. Praticamente ha dato le direttive, la via maestra. Del suono, di tutto praticamente. Anche dalla copertina meravigliosa, proprio di denaro. Eh sì, il bambino che viene attratto dal dollaro. Dal dollaro. Un po' come la figura di Boris. Esattamente. Che bambino non, non, so, non ti sei ispirato alla copertina di Nevermind. Forse inconsciamente. Magari inconsciamente. Mi sono ispirato. Vatti a sapere che cosa succede nella mia psiche. Psichedelica, una psiche psichedelica. Non è proprio giusta come però può andare lo stesso. Poi cosa porterei? L'ultimo disco di Cortex porterei. Quello assolutamente, quello basta è indispensabile. Una chitarra. No, e poi un altro, dai, scegliere un altro e poi abbiamo finito. Un altro disco. Ma tu, porterei Uprising di Bob Marley, porterei. La musica reggae. Sì. Il driver ha detto sì, è contento della tua scelta, il driver. Perché la mattina quando mi alzo mi piace ascoltare un po' di reggae, mi mette allegria. Ah, beh, certo, il reggae porta allegria. Sì. Anche se qualche volta è malinconico il rec, cosa dici? Sì. E non i testi. Ma Uprising di Bob Marley. Beh, è un bel pezzo. Ultimamente il reggae ha preso molto. Ha preso molto. Come posso spiegare? Molto piede nel live italiano. Certo, sono molti verissimo. Ha molto piede anche il rap nel live italiano. Ultimamente nelle classifiche italiane ci sono tanti musicisti rap. Rap and roll. Rap and roll, chiaro. Rap and roll sarebbe un po'. Perché il Fabi Fibra è stato il primo, sì. Poi c'è Fenez, ci sono altri musicisti che hanno. Alla fin fine hanno preso un po' il posto dei rocker. Questi rappettari con l'immagine dannata. Venuto qualche tempo fa un ragazzo che fa rap e mi diceva che c'è una difficoltà incredibile a cantare il rap dal punto di vista proprio di respirazione. È molto difficile. Sembra semplice, ma no, è molto complesso. Sì, è una tecnica. Anche quella. È una tecnica anche quella, non è mica una cosa da tutti i giorni. Caro Cortex, adesso scegliamo un pezzo da disco, vediamo che traccia vuoi far sentire. Traccia. Che traccia posso farvi sentire? Non so, decidi tu una traccia adesso. La numero 9. Facciamo la 9. Sentiamo Viversi la 9. Per comprendersi. Facciamo la 9. Michele ha scelto quella, il nostro regista. Sentiamo la numero 9. Va bene. Ok. Per comprendersi, stare un po' male per poi capire, come i bambini facciamo i giochini, ma siamo grandi ed ignoranti. Una magia, l'ipocrisia, così ti prendo e ti porto via. Magari un attimo sarai mia, non credo sia proprio una pazzia. E tante cose ci hanno rovinato, guarda, io non credo più al fato. Come sempre vorrei quel cuore, anche se mi porta assai dolore. Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Rockwave 22 e 23 07, con Michele Tosoni in regia e soprattutto Cortex, il nostro ospite di stasera. Questo pezzo, mentre il pezzo andava, parlavamo non più col driver ma con Marzio, ecco il suo nome. Effettivamente driver è una brutta cosa, è una bella cosa sì, però bisogna chiamarlo col proprio Marzio, si chiama Marzio, benissimo. Parlavamo di questo pezzo che secondo me era un bel singolo potenziale, una musicalità, un pezzo pop tra virgolette, sempre tra virgolette, con una bella armonica iniziale, molto De Gregoriano, se possiamo chiamare così Cortex. Sì, De Gregori, insomma, io mi ispiro. Abbiamo citato prima Banana sì. Republic, quindi Banana Republic numero uno, cari ascoltatori, non l'ultima, sì. Che è stato l'ultimo approccio con Dalla assieme a De Gregori. Anche in TV era. Esattamente. Quindi cosa dici? Cosa parlavi di questo pezzo? Io l'ho trovato molto bello, molto accattivante, molto radiofonico, possiamo dire questo. Questo è una canzone d'amore, proprio. Parla di un rapporto così che è finito un po' troppo presto e ci si rimane male così. È un blues anche questo. Anche blues, esattamente. Il blues circola sempre in tuoi pezzi, perché il blues è il tuo DNA, c'è poco da sì. fare. Poi qui appunto crea un tappeto, un pedale molto circolare, mm-hmm. no, diciamo, perché è un giro... Puoi citare, pedale circolare, per chi non è dentro il discorso, che cosa vuol dire pedale circolare? Vuol dire che crea una musica che può essere ipnotica, anche ipnotica, diciamo, può essere ripetitiva, il giro può essere ripetuto all'infinito come lo può fare soluzione. Dal vivo, una cosa simile. Sì, sì, sì. E il progetto di lo fai dal vivo ripetendo all'infinito questo ritornello, oppure no, dal vivo live da solo? Dal vivo cerco di riprodurla più uguale al disco che possibile. Alla fine ci metto delle note con l'armonica, perché non riesco a suonare la chitarra e fare gli assoli in assoluto. Non c'hai il valvolare vicino? Sì, sì, però la canzone finisce con degli abbellimenti sì, di chitarra. Esattamente. E, essendo solo, continuo a fare con la chitarra e gli accordi, e faccio con l'armonica un paio di note. Questo è l'unico cambiamento che metto live al pezzo. Posso chiederti una cosa? Spesso e volentieri capita, chiedendo ai musicisti, il live viene riproposto quasi uguale al disco. Chi invece ha un ragionamento contrario lo fa totalmente diverso. Di che ipotesi sei te? Al di là della presentazione che devi fare dal vivo, da solo. Se avessi una band, facciamo l'ipotesi, una band che ti segue sempre, Logicamente io farei tipo più uguale che riesco al disco, cioè riprodurre quello, il prodotto sonoro finale. Non ti allontaneresti dal discorso, non, cioè, amplieresti il discorso cambiando, no, stando fedele a quello che hai scritto precedentemente. Eh sì, comunque sì, io son propenso comunque a fare dei cambiamenti, limitati però. Sì. Però non so se una canzone non necessita nel suo tempo della batteria, non la metto. Non la metti, chiaramente. A proposito di questo, che datazione ha questo pezzo? È vecchio e nuovo rispetto agli altri del disco? No, Viversi per comprendersi l'ho scritto l'anno scorso. Ah, quindi è nuovissimo. Sì, sì. È nuovo, l'ho scritto nello stesso tempo, ho scritto Aspettando di impazzire, Complicare, La testa tra le nuvole. E Viversi per comprendersi sono delle canzoni venute fuori nel stesso periodo. Tra Cortex e il disco nuovo, tutti i pezzi che avevi scritto sono andati dentro il disco, oppure ci sono altri pezzi lasciati fuori per motivi diversi? No, io comunque ho tante canzoni. Adesso ora sto lavorando appunto a ancora un altro lavoro che farò venire fuori, penso, in prossima primavera. Che cosa ha di diverso da questo? È la fase ritmica. Cioè, cosa vuol dire la fase ritmica? E sto lavorando su questa cosa qua delle batterie, delle percussioni strane, queste cose qui. Vuoi dare un discorso più percussivo, più ritmico, più potente al disco, oppure no? Meno psichedelico, meno con chitarre distorte, oppure la chitarra distorta ci sarà sempre? No, la chitarra distorta la terrò sempre, devo mettere qualche ritmo sotto. Quindi il reggae insegna? Il reggae insegna, sì. Alla mattina mi sono ti svegli con un pezzo di Bob Marley. Sì. Benissimo, 23:12. Adesso cosa facciamo live, visto caro Cortex? Cosa avevi detto con me, mentre il pezzo andava, che volevi anche ripescare cose del primo disco, se vuoi. Sì, sì, sì, guardate, io ora volentieri vi pongo la canzone che si è sentito la canzone appunto del primo disco. Una riflessione sulla notte. Ah, una riflessione sulla notte, perfetto. È assolutamente per me inedita, che non l'ho mai sentita. Come tutti i nostri psichedelica, così. Però qualche ascoltatore del Friuli che dovesse aver comprato il tuo disco, Cortex se lo ricorda sto pezzo. Sì. Assolutamente, quindi. Eccoci qua. Ok. Domenica sera pianifico tutto e lunedì poi. martedì il dimentico, il piano. Mercoledì è il giorno da divano. Giovedì sera piove a dirotto. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Hai accarezzato la chitarra con Una settimana leopardiana, praticamente. Un pezzo molto interessante come testo, molto pessimista come testo, oppure ha qualche aggancio di lucidità alla fine. Non proprio, però in qualche momento sì. È una riflessione della notte, no? Quando sei... È molto una notte, però sì, vista, no? Al di là della notte che è nera, ma è proprio nera profonda. Sì, sì, un po' nera profonda questa qui. È notte, ma... un verme, diciamo, esatto, così. Esatto, un verme. Già l'aspetto, l'immagine del verme, perché quando... che si insinua, entra. Sì, come il verme nella tequila, no? Esattamente. Io la notte non riesco mai a stare... mai addormentarmi. E allora la notte un po' per me è un verme. Ho capito. Nel mio stomaco che mi porta a uscire, andare di qua. Possiamo avere delle riflessioni anche cinematografiche in alcuni momenti nei tuoi brani. Questo può essere anche cinematograficamente un noir, possiamo dirlo così, al di là del discorso dell'oscurità. Sì, sì, sì, noir così, la francese. Un po'. Alla francese, ecco. Sì. Quel periodo lì, sì, era un po' noir, un po' giù. Ma ti sei ripreso adesso. Sì, sì. Ti sei ripreso. No, ma anche nel primo disco c'erano canzoni allegre, Malato d'amore, c'era Amleto, che sono canzoni allegre. Questo sì. È un po' così. È un così. Poetico. È un disco alla corte di quel periodo. Sì. Musicalmente l'hai colorata bene questa chitarra acustica, aveva un bel suono. Non era distorta in questo momento. No, qua ho levato il distorsore. Come mai hai levato il distorsore? Perché originariamente il pezzo era senza distorsore o ce l'aveva nel disco? No, questa canzone era pure prettamente acustica. Assolutamente acustica. Sì, il primo disco l'avevo registrato appunto con un criterio di scelta degli strumenti, solo strumenti vintage. Questa è vintage in ogni caso. Sì, nessun suono artefatto costruito. Sì, è bravo, artefatto così, fatto MIDI o altre diavolerie così elettroniche. Non le pretendevo nel primo lavoro. Come mai adesso nel secondo le hai pretese? O meglio, hai tentato. Le hai prese qualcosina, non del tutto, o no? Ma sinceramente io avevo fatto delle canzoni, no? Una pre-produzione di Cinico Romantico, che si chiamava Cinico Distratto. Già è cambiato. Sì, già dopo l'ho cambiato. L'avevo fatto la pre-produzione e registrando queste canzoni col computer così a casa. Hai trovato questi suoni? Sì, mi avevo giocato un po' con i suoni e avevo trovato che questa correlazione della voce distorta con anche la chitarra distorta. Questa contrapposizione poteva dare un certo senso alle cose. Sì, funzionava. Allora in studio ho cercato di metterle più reali possibili. Cioè, chiaramente non è che ho fatto con l'amplificatore finto il suono distorto, ho pescato un amplificatore vero. Anche la distorsione della voce è un pedalino analogico che fa il lavoro, non chiaro, è che è un plugin di un computer, cambia il suono e tutte le frequenze. Mi è venuta in mente questa idea così per rinnovare, perché così siamo creativi, sì, e dobbiamo andare avanti e bisogna cambiare. Ma questo il discorso del verme, a me è piaciuto molto questo pezzo, posso dire. Sì. Dal vivo lo fai oppure lo hai dimenticato volutamente perché hai cambiato progetto? No, non è che ho cambiato progetto. Io che Marzio dice, lo sapeva a memoria, mi pare. Seguiva sì. molto, lo seguiva. È un mio fan. È Marzio. Tuo fan, lo seguiva sì. molto questo pezzo. Sì, cioè, diciamo, nel live tendo a separare le due cose, no? Quando le due epoche. Faccio, sì, adesso ero in promozione di questo, del nuovo disco, facevo le canzoni del disco. Chiaramente. Tutte assieme, dopo. La serata richiede d'altro tempo, posso fare qualche con due cover e anche riprendere le canzoni del primo disco, però principalmente stavo promuovendo ultimamente nei live, certo, le canzoni di questo disco. No, intendevo dire, non l'hai dimenticato il primo disco, questo vuol dire. No, anzi mi non è come Baglioni moltissimo. Che certi pezzi poi suonate tante volte. Beh, Baglioni suona sempre tante sì, volte, però al di là di questo, quando uno ama molto un pezzo poi tende a non farlo più. Questo è vero, ad esempio io ho appunto Malato d'amore, che è una canzone che io c'ho un odio amore nei confronti di questa canzone. Tutti quanti mi conoscono per questa canzone, il tuo hit praticamente. Avevo fatto il video ancora nel 2007 e qui facevo il pagliaccio a teatro, vestito da Rigoletto così e venivo beffeggiato da una bellissima ragazza che non prestava le mie attenzioni. Non ti curava assolutamente. Non mi prestava le mie attenzioni. E, ha preso piede. Sì, ha preso piede. È piaciuto molto ai tuoi fan. E ultimamente è successo che ai live mi domandano. Perché non lo fai? Sì, ma fai Malato d'amore. Però è la canzone. Ma per un autore, che ti chiedono questo pezzo, cosa sente l'autore? Ma perché devo farlo? Ma me lo chiedono, lo devo fare o non lo devo fare? Beh, chiaramente bisogna farla, sì. Perché se la domandano vuol dire che è famosa, vuol dire che è sì. conosciuta. E questa a me, cosa a me ha stancato un po', diciamo benissimo. Così. Volevo arrivare se a posso dire la verità, come allora Baglioni ha ragione su certe sì, cose. Sì, sì, perché dopo, se no, uno si affossa sempre sulle stesse cose. Chiaro. No? Chiaramente Baglioni avrà cantato questo piccolo questo grande amore. È stanco di cantare. Ma l'avrà cantata sicuramente. Come è stanco di, a proposito di De Gregori, sì. La casa di Hilde non la vuole più cantare. Perché? Che quelle, mentre tutti quanti chiedono in continuazione, chiedevano la casa di Hilde, la casa di Hilde. Però se. Loro se lo possono permettere, certo, di non fare una canzone. Stiamo, diciamo. Adesso stiamo. Abbiamo sì. solo fatto un'ipotesi. Però, tecnicamente, quando un autore si stanca, trova difficoltà a rifarla. Sì, soprattutto io penso per loro, per i grandi, magari questo piccolo grande amore, diciamo, di Baglioni, prendiamolo come esempio. È stata registrata negli anni 60. Certo, non ha più la valenza, non è più sulle corde di adesso. Proprio tipo la scelta dei suoni, certo, no? Certo. Quella, la canzone è proprio registrata negli anni 60-70, ha un suono diverso. Che adesso a riproporlo con la band che magari che ha Baglioni in live è alquanto difficile riproporla con la stessa emozione. Diventa snaturata al 100%. Sì, è come farla magari in un'altra versione, chiaro, con la chitarra Lady Dance, no? Quindi magari anche sono queste cose cui un autore è legato a certe sonorità, io penso che posso per spezzare una lancia in confronto. Certo. Dopo chiaramente il povero Baglioni andrà in giro per Roma e gli fa oh, questo piccolo, che danno di tutto, cioè, certo, è certo. conosciuto per quello. Chiaro. Caro Cortex, visto che stiamo conversando piacevolmente, suoniamo un altro pezzo, visto che ne hai tanti, che cosa adesso? Ora vi propongo Boris. Ah, Boris, che abbiamo sentito prima dal disco. Allora, questo denaro, Boris, con l'S. Sì. Ok. Wow. Soldi, il potere. mettere e fare soldi a palate. Il potere è una corazza di denaro, ma chi l'ha detto? Un sorriso non ha valore, perché cambia il tuo umore. La gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Avere macchine sfavillanti con tante luci mirabolanti. Il potere è una corazza di denaro, ma chi l'ha detto? Un sorriso non ha valore, perché cambia il tuo umore. La gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Ragazzino impertinente, credi d'essere divertente? Guarda ora tra le tue mani cosa stringi per il domani. Io c'ho tutto o forse niente, tanto il mondo è divertente. Un sorriso non ha valore, perché cambia il tuo umore. La gioia dei bambini non sta mica nei soldini. Il mondo è bello perché è blu, sì, ma ora è grigio, guarda, l'hai voluto tu. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sì, mi è piaciuta questa versione di Boris, caro Cortex. Grazie. Musicalmente, la tua chitarra in questo pezzo mi ricordava qualcosa di Ivan Graziani, secondo me. Wow. Ivan Graziani, quello musicalmente molto, molto scheletrico, hai capito? No, Ivan Graziani con l'orchestra di Ivan Graziani, con gli arrangiamenti, quello scheletrico che sapeva usare benissimo. Quello di Pigro di Mona Lisa. Quello di Pigro di Mona Lisa, che aveva delle sterzate enormi, entrava dentro senza nessun problema. Era un grande. Eh sì. Un grande. Sottovalutato, un grande. Molto sottovalutato, purtroppo. La gente si è ricordato di lui solo per Agnese, ma lui non ha fatto solo Agnese, ha fatto tante altre canzoni di un certo peso e anche dure, ma dure musicalmente. Innanzitutto era un grandissimo chitarrista. Sì, suonava che... con Battisti. Esattamente, è un grande, e molta gente ha imparato anche certe sonorità da lui, perché è un chitarrista di grandissimo valore, di grandissima tecnica. Sì. E qui mi ha ricordato queste sonorità particolari, così scheletri, così secche, mi ha ricordato Ivan Graziani. Grazie. Ho avuto questo flash musicale. È uno dei tuoi miti. Dei miti, sì, un grandissimo ascoltatore. Anche lui c'era il blues sotto. Camisetta, assolutamente. C'era blues, lui nelle vene. Ultimamente ho visto che suo figlio sta girando con un progetto in cui ripropone le musiche del padre. La musica del padre, effettivamente. È una cosa molto interessante. E secondo te riproporre le musiche, no? Cristiano De André ha fatto un progetto e il figlio di Ivan fa un altro. Questi genitori così importanti, così forti, così pesanti musicalmente, è un rischio secondo te? Puoi portare avanti un discorso che non è più tuo, ma diventa, cioè la gente viene purtroppo a sentirti, sei bravo, viene a sentirti perché ti chiami Cristiano De André, viene a sentirti perché sei figlio di Ivan Graziani. È un rischio. È un po', sì, un peso, diciamo, per loro, penso, suppongo, perché... Però è un peso che si stanno tentando di allontanare, chiaramente. Non dimenticato il genitore, per quello no. Però sì, di allontanare musicalmente, perché devono cercare di proporre un loro percorso. Potrebbe essere anche una sfida per queste, certo, persone, di riuscire ad andare oltre a quello che hanno fatto i loro padri. Dovrebbero riuscire a... È difficile fare qualche canzone potente. Sì, ultimamente è molto difficile. Però è una bella cosa, secondo sì, me. Sì, è una cosa bellissima. Infatti, poi appunto, se parliamo dei figli, appunto, di Ivan Graziani e di Fabrizio De André. E di Fabrizio De André, sono molto simili al sì, livello. Come tono di voce. Sì, come sia come tono di voce. E anche sono bravi musicisti, perché, sì, sì, perché sì. Sia Cristiano sia il figlio di Ivan Graziani sono gli ottimi musicisti. Sì, ho visto qualche live del figlio di Graziani e mi ricorda molto il sì, anche come impostazione, stile. Esattamente, sì, sì, sì. Il suo stile. Si vede proprio che insomma che pasta che, fa. Sì, che il frutto non è caduto più lontano dell'altro. Esatto, non è a caso. È un discorso bisogna interessante. Bisogna augurarsi che la forte personalità appunto dei padri non vada a ostacolare troppo la loro sminuire creatività, il valore del figlio, chiaramente. Come è successo per i figli di John Lennon, Julian se lo ricorda più nessuno, Sean lo stesso, era troppo forte, troppo importante, troppo invadente, troppo tutto John Lennon, sì, per poter proseguire una carriera abbastanza normale. Okay. Anche il figlio di Bob Marley che fa una anche carriera. Il figlio di Bob Marley. Vedi, la gente si ricorda purtroppo solo dei padri. Il figlio di, sì. Jeff Buckley ha avuto una sua carriera una sua carriera personale assolutamente, sì. Ma Tim Buckley era un altro aspetto, è un altro. Avevano anche delle controversie, lui sì. Non lo riconosceva come figlio. Certo, sono state delle controversie notevoli. Abbastanza. Cioè, è un discorso molto, molto piuttosto complesso, delicato. Con le pinze, però. Esattamente, però. Ma Tim Buckley aveva una sua direttiva musicale, Jeff Buckley ne aveva assolutamente un'altra. C'era la voce, c'era il DNA, sì. Perfettamente, la magia, tutti e due, però è diverso. Mentre John Lennon e mentre Julian Lennon e proseguivano in un discorso molto vicino al padre. Sì, però io preferisco molto di più Jeff Buckley che a Tim. Io preferisco più Tim che ho una certa età, forse. So, però sì, sarà che ha avuto poco tempo ha avuto pochissimo tempo. Ha fatto solo un disco figo, bellissimo. È incredibilmente bello. E allora tipo non ha potuto, cioè non ha se potuto. Se fosse ancora vivo, che dischi avrebbe poi prodotto? Chi lo sa? Meravigliosi sicuramente. Perché superare un pezzo, un disco come Grace, non era molto semplice. No. Secondo me sarebbe diventato molto amico di Ryan Adams. Può darsi, un altro musicista bravissimo, sì. Americano. Super bravo, veramente. Che non hai citato nei tuoi preferiti, però. No, beh, ora no. Però non lo porterei su un'isola deserta. Ha fatto tanti dischi positivi, molto belli. Sì, Ryan sì, Adams. Sì. Ashes and Fire, l'ultimo è molto... Molto interessante. Molto bene, bello. Sono 23:33. Adesso facciamo una cosa di questo genere. Abbiamo sentito due live, ti riposiamo un momento. Scegliamo un altro pezzo da disco. Che traccia vuoi scegliere? Che non abbiamo appena fatto. Michele, numero 8. Michele dice il numero 8. Va bene? D'accordo. Sentiamo il numero 8. Vai. Ok. Nei tuoi occhi c'è qualcosa che brilla, ma non sfavilla. È la tua anima che putrida, è la tua identità che non va più d'accordo con me. Ma la tua anima salva sarà se un giorno in più con me resterai, ma non è così. La mia musa se n'è andata via, non ritorna più. La mia musa se n'è andata via, ormai ha perso la retta via. Omino luci blu, me l'hai portata via tu. Ma cosa avrai in più di me? Sarà la macchina luccicante. Omino luci blu, me l'hai portata via tu, ma cosa avrai in più di me? Saranno i sedili in pelle. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Eccoci qua, un altro pezzo significativo dell'album, uno dei, possiamo dire uno dei vertici dell'album, a nostro parere, noi della redazione di Alberto e me. Omino Luci Blu. Sì, è bello anche quello, ci piace, ci piace. E che finisce con questo cinismo romantico, ma cosa avrà in più di me? Saranno i sedili in pelle. Vero. Perché... Anche musicalmente come l'hai costruito? È un po' più complesso rispetto agli altri pezzi del disco. Questa canzone l'ho costruita musicalmente, guarda, mi sono ispirato a chi? Bang Bang, una canzone, quella Bang Bang degli anni 60, sì. Che Boni Sonny Bono. Sì, lo, che la cantavano l'Equipe, la cantava. Sì, l'avevo sentita come colonna sonora di Tra il tramonto all'alba, sì, un film di Tarantino. E mi aveva ispirato questa sonorità. Questa sonorità. In più, questa è una canzone vecchia, l'avevo scritta abbastanza tempo fa, il testo, anche la musica. Mm. E, tu parlavi anche dei. Dei Radiohead. Radiohead, anche sì. Marzio ne parlava. Sì, il ritornello un po' Radiohead, diciamo così, sulle sonorità e del tempo dei Creep, dei, sì, The Bands, dei, prima dei del disco. Grande successo, sì, prima di OK Computer. Esattamente. E appunto parla del fatto che sono stato lasciato io da una ragazza che preferiva i tamari, diciamo, no? Questi, sì, ragazzi, questi qui con le luci blu nell'auto, non si avete mai visto quelli che vanno in giro con le auto con le luci blu. Io mi domando, ma cosa avrà in più di me questo, il tamarro, questo ragazzo? Sarà un tamarro, saranno i sedili in pelle. Io ecco, può darsi. C'avevo la panda scamosciata, cioè, con i buchi delle sigarette. Chiaramente. Vabbè, cioè, ho scelto... Ha scelto quello. Sì, io per rallegrarmi ho scritto questa canzone. Ecco, un grande pezzo, secondo me, ripetiamo. L'arrangiamento è bello e molto. Prende immediatamente questo suono alla Radiohead, tra virgolette, alla Bang Bang. Ritornare ai Bang Bang agli anni 60 era un hit favoloso, americano, di Sonny, sì, Bono, quindi meraviglioso, secondo noi, noi della redazione, così chiamati. Bene, 23:38, abbiamo circa un quarto d'ora ancora per dialogare, per belleggiare a Rockway, curato in regia da Michele Toso, con Cortex stasera, che ci presenta il suo nuovo progetto praticamente. Un progetto nato in che studi di registrazione effettivamente? C'è una zanzara, sì, fa un po' di caldo, la volevo calzare le zanzare. A Udine mi pare lo studio di registrazione. No. Udine era il precedente. Il precedente, ho fatto un'etichetta di Udine, l'Arbership. E questo disco l'ho registrato un po' a caso, ho fatto delle prese. Non totalmente a casa, però. No, e dopo ai Palo Alto Studios, che sono dei studi di Trieste. Di Trieste. Ho fatto il mixaggio e lo studio di un amico mio. Quindi ha partecipato Fabio, anche lui? Fabio Zinchelli, sì, sì, anche, ha partecipato anche lui come tecnico, insomma. E cosa ti ha dato una mano? Ti ha dato qualche dritta oppure no? Ma diciamo che in questo studio ho pescato le batterie, mm-hmm, e dopo ho fatto il mix. Ah, ho capito. Perché... batterie è sempre del teatro degli orrori. Sì, è perché a casa era un po' difficile pescare. Ma si può fare, potevo fare una chitarra, la voce, le ho fatte a casa, gli altri strumentini. Però ecco, la batteria era per avere un suono un po' più professionale, ho preso uno studio. Sei stato soddisfatto del nuovo disco Cortex? Sì, sì, sì. Anche noi. Sono soddisfatto anche del lavoro che ha fatto Franz, che ha fatto le prese subito in un pomeriggio, ha fatto tutto. Però? Sì, sì, beh, professionale. Cioè, chiaramente sì. Un professionista. Quindi praticamente un pomeriggio hai costruito, hai chiuso il cerchio delle cose. Sì, abbiamo fatto una preproduzione prima con delle batterie finte per farli sentire più o meno com'era il sound, e dopo lui ha aggiunto. Benissimo. Allora, un altro pezzo da disco e poi faremo un gran finale live. Cosa scegli da disco? Che traccia dobbiamo scegliere? Michele, che traccia scegliamo ancora da disco? La numero 10, cosa dice il numero 10? La numero 10 dal disco è... Ho di meglio da fare. Ho di meglio di fare. Vuoi spiegare un secondo? Ho di meglio da fare. È una, sempre una canzone d'amore, perché siamo cinico-romantico. È cinico-romantico, appunto. Io questo disco ho martoriato un po' tutte le mie ex relazioni, non so. Queste cose. I tuoi amori. I miei amori, sì, li ho macellati un po'. E questa canzone però è l'ispirazione, anche il titolo, avevo di meglio da fare. E proprio quando uno si alza la mattina e dice: beh, oggi ho di meglio da fare che passare il tempo con te, non differenza. Certo. Quando superi una condizione, allora ho messo giù queste parole, questa musichina. Hai tirato questi versi praticamente, sì, musicali, hai musicati, adesso lo sentiamo, ok? Grazie. Domani mi alzo e ho di meglio da fare che restare qui fermo e i tuoi occhi guardare. Aspettare una carezza, non c'è nulla da fare. Così il tuo cuore faccio scappare. Ma sono un romantico, lasciami sbagliare. Un raggio di sole mi fa emozionare. Più niente da fare, se dentro il mio cuore ti fa bruciare, se dentro il mio cuore ti fa bruciare, se dentro il mio cuore ti fa bruciare. E se domani mi alzo ho di meglio da fare, stare fermo e te immaginare. Ormai è finita, non c'è nulla da fare. Mentre ti penso il mio cuore sta male. Ma sono un romantico, lasciami sbagliare. Un raggio di sole mi fa emozionare. E non c'è niente, più niente da fare. Sentendo il mio cuore di far bruciare. Sentendo il mio cuore di far bruciare. Sentendo il mio cuore di far bruciare. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Cari ascoltatori, voi non lo sapete, ma mentre il pezzo andava, Bon Cortex ha messo spinotti, sta cercando di elaborare le ultime due pezzi dal vivo. In ogni caso, dopo chiaramente partiremo, anche c'è l'armonica, c'era il fischio, qua il fischio l'avevi, come è un fischio normale o un fischio un po' anche questo distorto? Il fischio, questo qui è normale, però io con i fischietti ti faccio una chicca. Vai con la chicca. Ah, bello. Beh, sei un esperto allora. Ho passato tempo dietro ai fischi, cercavo di... C'è un progetto di inserire questi fischietti? Già, nel primo disco li inseriti questi uccellini, così. Ho fatto un po' di uccellini in un paio di pezzi, tante persone pensano che sono registrati. Invece sono i tuoi... Faccio io. Interessante. Anche quello è molto, molto inglese, molto psichedelico inglese. Usavano, sì. C'era un musicista inglese che usava spesso e volentieri questi inizi di fischi e poi chiaramente portava la sua musica. Era Paul Roland. era Apple Roland, no, era Apple Roland, e certe volte si divertiva, tra virgolette, a iniziare i pezzi fischiettando. Era un po' lugubre Paul Roland, assolutamente, non era, era molto molto nero, nero no musicalmente, sì, sì. Molto molto malinconico. Non era come Donovan, era un po' più... Donovan è meraviglioso secondo sì. me, io lo trovo meraviglioso, non è un tuo DNA Donovan, sì, sì, sì, anche Donovan. Quello lo ami particolarmente. Donovan, lo adoro. Io ti faccio una proposta, 10 secondi, hai sì. qualche pezzo di Donovan da lanciare in questo momento? Fare un ritornello, un riff? Bene, bene, bene. Hai citato Donovan, questo mi fa molto piacere. Benissimo. Non mi ricordo i testi, sono io poi sono inglese, sono un po' complicati quelli di Donovan, ma sono sì. meravigliosi. Mamma mia, Donovan lo adoro io. Era un grandissimo, era il Dylan inglese praticamente. Sì. C'è poco da fare. Bene. È ancora vivo e vegeto Donovan, sì, sì, cari sì, ascoltatori, fa... ha fatto tantissime cose, è un po' stato dimenticato perché sai, le cose cambiano, gli autori cambiano, le mode cambiano, però le cose belle rimangono e Donovan ne ha fatte tante Mamma cose mia. Belle. Sì. Ha influenzato parecchia gente, sì, cari sì. ascoltatori, c'è poco da fare. Mellow Yellow. Mellow Yellow. Pezzi molto particolari, molto indiani, l'amicizia con John Lennon, tante altre cose. Beatles e Donovan avevano un rapporto molto frequente, anche lasciamo perdere il dopo, musica solo musicalmente, parliamo solo musicalmente. Yes. Ok, sono 23:46 adesso. Tu hai detto il disco, citiamo un'altra volta il sito se uno vuole avere il disco materialmente. Sì, il mio sito è www.cortex linea in mezzo non underscore punto cortexmusic.com www.cortexmusic.com e lì trovate tutte le possibilità, potete scaricare il disco, guardare i video, guardare le prossime date, leggere i testi, guardare delle foto. Quello è il sito di partenza di Cortex. Curi tutto te? Curo tutto io, sì, nel sito. Quindi fai di tutto. Anche un amico mio, Guido e Angela, mi danno una mano. Ecco, citiamoli. Tecnicamente, perché sennò sarei totalmente incapace. Diciamo sì. Ciao Guido, ciao Angela, grazie. Una cosa, la copertina chi l'ha scritta? Chi l'ha disegnata? Chi l'ha. L'ideazione, molto divertente e interessante. Ecco. Allora, la puoi spiegare ai nostri ascoltatori che non hanno i video, chiaramente non hanno la copertina davanti. Beh, se vanno sul sito www.cortexmusic.com lo trovano. Comunque sono due gambe con in mezzo il triangolo dell'occhio di Dio, diciamo. Esattamente. Io avevo fatto un concept all'inizio con una fotografia, un fotomontaggio di questo, con un occhio dietro a due gambe. Camminano, non due gambe, una bella ragazza, ma non rendeva troppo l'idea. Allora ho contattato questo mio amico creativo che è Jan Sedmak, in arte Boris Karloff, sempre Boris, sì, sempre Boris Karloff, perché è il regista di Frankenstein, esatto, sì. E che ho detto, senti, ma come potrei fare qua queste fotografie, metterci dietro il fotomontaggio dell'occhio, volevo fare una cosa così un po' strana anni 80. E lei mi ha fatto un disegno, ho detto, ma guarda, questo disegno è perfetto, cavolo, lo userei per farci la copertina del disco. Ah sì, beh, ma la modifichiamo un po', l'ha modificato un po' e è venuta fuori la copertina così. Certamente. Benissimo, 23:48, abbiamo deciso io, Marzio e Cortex di fare due pezzi live. Ne facciamo uno in questo momento. Che cosa, Cortex? Ora vi faccio Viversi per comprendersi. Perfetto. Bisogna viversi per comprendersi, stare un po' male per poi capire, come i bambini facciamo i giochini, ma siamo grandi ed ignoranti. Una magia, l'ipocrisia, così ti prendo e ti porto via, magari un attimo sarai mia, non credo sia proprio una pazzia. Tante cose ci hanno rovinato, guarda, io non credo più al fato, come sempre vorrei quel cuore, anche se mi porta assai dolore. (Susurra) cerco di capire che cos'è che mi fa soffrire. Divento pazzo ed inconcludente e non mi piace stare in mezzo alla gente. Ti faccio schifo, fai l'indifferente e sono scemo, non ti importa niente. Poi finisco a farmi del male, quasi non mi so più comportare. E poi mi metto a gridare perché hai il cuore di ghiaccio ed io non so che fare, non so che fare, non so che fare, non so che fare, non so che fare. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Una cosa che ti hanno chiesto in un'intervista e tu hai risposto molto bello. E tu hai chiesto perché scrivi i testi in italiano. E tu hai risposto perché scrivo esattamente le cose che sento, le cose che mi emozionano. Eh sì, se no devo tradurlo in un'altra lingua. Esattamente, l'italiano è emozione, chiaramente la gente può ascoltare, può capire. Chi scrive in inglese però può dire la stessa cosa, però non tutti sanno l'inglese. Sì, questo qui è un lungo discorso che non finisce mai. Sì, perché comunque diciamo, per scrivere in inglese anche... Tu avevi scritto in inglese? Sì, ho fatto anche canzoni in inglese, ma non... non le sento troppo mie come interpretazione, come appunto come testo, perché... Perché tu cerchi di essere sincero, hai ribadito nell'intervista. Sì, diciamo, se vado a vivere 2 anni in Inghilterra, dopo sicuramente canterò delle canzoni in inglese, perché se comunque io l'inglese, diciamo, più dai viaggi che vado a fare... Dove giri, così per sapere? Non so, posso andare in Germania, in Croazia, in Spagna... in Olanda, no. Pensavo che seguissi diciamo. Qualche concerto da vedere, come capita qualche volta. Beh, sì, ogni tanto vado, fanno tanti bei concerti a Lubiana. Abbiamo una costa capitale. È abbastanza vicino. Sì, vicino a Trieste, sì. Sono stati qui in Queen of the Stone Age, Tambien Impala. C'è un bel festival. Sì, sì, c'è abbastanza vita, una capitale europea, insomma, dove gira abbastanza musica. Più dai viaggi così oppure a scuola, non è che l'avevo studiato l'inglese più di tanto, cioè non lo applico più di tanto, quindi si sente se uno canta in inglese ed è italiano. Certo, certo, si sente. Quindi è difficile essere madrelingua, se sei di madrelingua allora è un'altra cosa, però se sei italiano, anche se sei bravissimo, si sente, c'è poco da fare. Sì, quindi sentivo queste cose e non mandava l'inglese così, allora ho preferito concentrarmi sull'italiano, che poi è, insomma, è la lingua da cui parte la poesia, tante canzoni sono... Fondamentalmente questo è un disco poetico, cari ascoltatori, poetico con molta ironia, possiamo dire questo. Un poeta ironico, sì. Un poeta ironico, dai. Fondamentalmente c'è poesia, c'è romanticismo, però cinicamente romantico. L'inglese sia sempre stato un po' un tallone d'Achille, diciamo, della mia produzione, perché non mi sono tanto... Ti apri i mercati esteri, possiamo dire, qualcuno potrà dire, se fai un pezzo in inglese ti può essere esportato, può essere venduto tra virgolette all'estero, sì. Però non può essere capito in Italia. Sì, può essere capito, dipende dal punto di vista. Sì, può essere capito come non capito, però insomma preferisco scrivere le mie emozioni in italiano, dopo al limite magari le traduco. Anche al limite può essere così. Perché ogni tanto faccio questo errore di scrivere direttamente in inglese. E poi le traduci in italiano. Sì, perché è una lingua internazionale, ma non è vero, la lingua internazionale dell'amore è l'italiano, Dante Alighieri. Certo. No? Chiaramente sì. Stasera abbiamo parlato delle tue emozioni, adesso sono le 23:55, abbiamo fatto 2 ore di cavalcata con le tue emozioni, abbiamo parlato del disco nuovo, Cinico Romantico, abbiamo accennato il disco vecchio e abbiamo accennato a dei progetti futuri che arriveranno, caro Cortex, non si sa mai. Eh sì, Ora, fra questo mese promuoverò il nuovo videoclip della Felicità secondo Leopardi. Bene. Se vi capita, che è un bel pezzo, ragazzi. Io l'ho sentito dal vivo, l'abbiamo sentito assieme a voi, cari ascoltatori. È un bel pezzo, molto significativo. Questo, questa tristezza secondo Leopardi. Sì. O secondo Cortex, che è la stessa cosa. L'abbiamo girato qui tra Trieste e Recanati. Tra parentesi, Recanati. Recanati è la città natale di, chiaro, di Giacomo. Di Giacomo. Vede a me andare in giro con una maglietta di Giacomo Leopardi e a cantare le mie canzoni in mezzo alla gente, in varie location. E, se vi capita di vederlo in giro, cliccatelo, ascoltatelo e guardatelo più che potete. E se potete, comprate anche il disco di Cortex. Sì, se potete. Ma si può scaricare gratis. Sì, beh, ecco, quindi potete scaricarlo anche gratis. Su Clinical Archive lo scaricate gratis. Trovate il link totale sul mio sito www.cortexmusic.com. Perfetto, grazie a Cortex. Stasera grazie a Michele Tosoni in regia. Domani avremo Liana Marino, ore 21 con Agostino. Con cosa terminiamo, Cortex? Terminiamo con Aspettando di impazzire, la prima canzone del disco. Bye bye, grazie e buonanotte a tutti. Aspettando di impazzire, mi sembra quasi di morire. Resto fermo, non so che fare, così mando tutti a cacare. Non mi resta che il bicchiere, scelto apposta sì per bere. Così se cerco di impazzire, ma cosa penso di capire? Poi mi metto a rovinare ciò che è già semplice e geniale, come un attimo da assaporare, un momento da fermare. Piangere e pensare per forse poi capire ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire. Piangere e pensare per forse poi capire ciò che mi volevi dire, e ciò che mi volevi dire. E poi mi metto a rovinare ciò che è già semplice e geniale, come un attimo da assaporare, in un momento da fermare. Mi è rimasto un nodo in gola, sai, il tuo cuore è una tagliola. Se solo riuscissi a pensare a cosa, come ragionare. Ma quando balli mi fa impazzire, resto fermo, non so che dire. Ma da domani cambio direzione, esco e non ricordo più il tuo nome. Poi mi metto a rovinare ciò che è già semplice e geniale, come un attimo da assaporare, in un momento da fermare, per ridere, fotografare, parlare e scherzare. Piangere e pensare per forse poi capire ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire. Piangere e pensare per forse poi capire ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire. Rock Wave. Rock Wave Live.